E sempre diretta dal Forte Prenestino, dal CSO Forte Prenestino, qui a Centocelle. Adesso dovremmo avere una diretta in diretta, una bella telefonata da Piazza delle Betulle, perché sta avvenendo una cosa che nasce dall'esperienza della LAC, la Libera Assemblea di Centocelle, e dal gruppo di appoggio mutuo, che ne è nato un'esperienza dal basso, una cosa importante per questo quartiere, non solo perché stanno avvenendo delle cose brutte e continuano ad avvenire, ma perché è sempre bello quando nascono delle cose dal basso. Ci segue, ci guida Sergio in questa comunicazione e ci spiega un po' che cosa sta accadendo. Niente, Jimmy Perù, ci sei? Sì, ciao, ciao a tutti e tutte. Scusate, mi sento un po', è un po' disturbata la linea. Noi ti sentiamo forte e chiaro. Ah, ok. Noi siamo qua a Piazza delle Betulle e oggi abbiamo fatto questa cena di quartiere, diciamo che è agli inizi. Ci sono già un po' di persone, oggi praticamente abbiamo cucinato il pomeriggio e offriremo questa cena a costo zero e chilometro zero al quartiere, insomma per riprenderci un po' di socialità e un po' le nostre piazze. E stiamo appunto a Piazza delle Betulle, che è una piazza qua di Centocelle vicino a Piazza Gardenie, che oggi abbiamo ripulito, abbiamo tagliato un po' di erbacce, insomma è una bella... È una bella situazione, conviviale. Eh beh, direi che a Centocelle oggi di tutto questo c'è più che bisogno. Mi sembra che poi l'origine stessa del gruppo di appoggio mutuo, che poi adesso ci racconterai, che è nato in piena pandemia, diciamo costola attiva della Libera Assemblea Centocelle, la cui origine è strettamente legata ai fatti occorsi nel novembre scorso e volendo anche al 25 aprile del 2019, cioè con gli incendi della libreria della pecora elettrica e delle altre attività di quartiere. Fra l'altro anche questa settimana sono successi dei fatti, fra questa e quella scorsa. Se vuoi un po' raccontarci appunto di in che condizioni nasce la LAC, in che condizioni inizia a attivarsi il GAM e che cosa sta succedendo adesso, diciamo, perché la vostra cena di piazza non è solo una voglia di convivialità, ma è proprio una risposta a tutto ciò che sta succedendo qua. Esatto, esatto. La LAC nasce appunto a novembre dello scorso anno come risposta ai tre roghi che ci sono stati qua in quartiere, appunto alla pecora elettrica, alla 155, la pinzeria e al Baraga Bistrò. Quindi diciamo è nata come risposta degli abitanti del quartiere a questi attacchi, e quindi il punto era questo: creiamo una comunità, creiamo un quartiere che si conosce, perché un quartiere sicuro è un quartiere che si conosce. Per combattere questa paura dobbiamo essere uniti, dobbiamo appunto creare questa comunità, questa comunità che poi nel momento della crisi pandemica si è trasformata anche in un gruppo di appoggio mutuo, che appunto faceva distribuzione di alimenti vicino ai mercati all'inizio di Piazza delle Iris e poi anche in altri posti del quartiere e anche fuori da Centocelle, perché c'è un gruppo GAM anche a Villa Gordiani e a Torpignattare. Quindi anche in questo caso la comunità per difendersi non più dagli attacchi del quartiere, ma in questo caso per difendersi da questo capitalismo che lavora continuamente in crisi e quindi da questa crisi pandemica economica che ha colpito. Jimmy, ma quali sono, stando ai tavoli attivi, diciamo, della Libera Assemblea Centocelle, compreso anche il gruppo di appoggio mutuo, so che i vostri campi di intervento sono plurimi. Di che cosa vi state occupando in questo momento? So che ci sono i parchi, so che c'è la questione della scuola e delle scuole, so che c'è un gruppo di autoproduzioni. Sì, esatto, si sono creati, diciamo, dei gruppi di lavoro, c'è il gruppo dei parchi che si occupa appunto della gestione dei parchi, delle attività che si vogliono portare dentro i parchi per vivere appunto i parchi del quartiere, dal Parco delle Palme, al Parco di Madre Teresa di Calcutta. Il Parco delle Palme, diciamo, è anche stato, entrambi sono stati due simboli della lotta della LAC, che ha chiesto insistentemente anche le luci in quelle zone per poterle rendere vivibili. Poi c'è un gruppo che si occupa appunto di creare una coesione per trattare i temi che riguardano l'educazione, quindi tutto quello che sta succedendo adesso alla scuola. Una scuola che fondamentalmente è sotto attacco nella propria gestione, perché va adesso a scontare tutte le spese che non sono state effettuate in questi anni, la mancanza di personale, la mancanza di spazi, e quindi si sta ragionando a come poter intervenire in questa scuola, perché la soluzione ovviamente non può essere la didattica a distanza, è una soluzione di fatto classista che crea problematiche oltre a quello di rincontrarsi, e non può essere la soluzione che si può adottare per tutto il prossimo anno. Poi c'è un tavolo che si parla, che tratta della questione della pecora elettrica, e quindi che cosa deve essere l'ex pecora elettrica, cosa deve diventare quel posto. Adesso la regione ha preso, ha pagato l'affitto di quel di quello che era l'ex pecora elettrica, che era il proprietario, era un privato, e adesso la LAC si deve chiedere, si chiederà il 5 luglio in piazza cosa dobbiamo fare della pecora elettrica, cosa vogliamo che quello spazio diventi per il quartiere. Ma una domanda al volo, ma io so che c'è tipo un'installazione, avete portato lì un pecorone gigante, cioè come di... mi è arrivata questa voce. Allora, dici, oggi, 5 luglio, oggi abbiamo costruito una pecora fatta di cassette, le cassette della spesa che abbiamo utilizzato e che venivano utilizzate per la distribuzione del GAM. Questa pecora elettrica verrà portata il 5 luglio, perché appunto c'è questa giornata al Parco delle Palme in cui si parlerà della GAM, si parlerà della LAC, si parlerà della pecora elettrica e di come il quartiere vuole che cosa sia, qualcosa deve essere, cosa deve offrire quello spazio al quartiere. Poi ci sarà una cena e poi si ricorderà anche il carnevale, perché tra le tante cose che ha fatto la LAC c'è stato anche un bellissimo carnevale auto-organizzato, in cui in un periodo in cui ancora ci si poteva toccare e abbracciare. Certo, e quindi vabbè, ho spoilerato la questione della pecora, perdonatemi, non volevo. Ribadisci l'appuntamento con questa installazione a questo punto e con questa iniziativa. Allora sì, la prossima iniziativa è domenica prossima dalle 5:30, domenica 2 luglio se non sbaglio. Sì, dalle 5:30 al Parco delle Palme. Quindi appunto ci sarà una discussione su come ci aspettiamo che debba diventare la pecora elettrica, e poi si mangerà tutti insieme, come anche appunto ricerca di socialità, ma anche di incontrarsi per conoscersi. E un'ultima curiosità, perché qui si sta parlando di autogestione territoriale, si sta parlando di auto-organizzazione, si sta parlando di azione autonoma, perché di questo si tratta. E la composizione della LAC è molto varia, comprende quale tipo di realtà e di attivismo comprende? Appunto, c'è veramente di tutto, dagli spazi sociali come il Forte Prenestino, Centocelle Aperte, il Casale Falchetti, ma anche gli abitanti del quartiere, ma anche le associazioni come il Teatro della Parola, insomma è molto variegata, dal singolo abitante del quartiere alle strutture politiche, alle associazioni diciamo riconosciute. E per chi volesse entrare in contatto con voi, che tipo di indirizzi, pagine, contatti può trovare? Quello c'è. La pagina Facebook dell'AC, della Libera Assemblea di Centocelle, dove appunto vengono lanciati tutti quanti gli appuntamenti che riguardano la LAC e tutto quello che la LAC sta occupando, quindi il GAM, il gruppo di mutuo appoggio, l'organizzazione delle giornate in piazza e insomma tutto quello che poi verrà in futuro. Perfetto, allora per chi è in ascolto invitiamo tutti a recarsi adesso a Piazza delle Betulle a Centocelle, qui a Roma, dove è in corso questa cena solidale, cena sociale. Niente, noi salutiamo Jimmy Perù, grazie mille. Niente, saluti da Radio Forte. Dai, noi vi ricordiamo che è sempre bello agli ascoltatori, ricordiamo che è sempre importante far partire le cose dal basso, far partire le cose dal quartiere. Tutta questa situazione è nata dal quartiere, è importante continuare ad avere questo tipo di atteggiamento. Ora ci sentiamo un po' di musica e poi parliamo d'altro, nello specifico di crack. Dai con Radio Forte. Dai Lea. We'll be right back. Questi giorni, in questi weekend, ci sarebbe dovuta essere l'ennesima edizione di Crack, il festival di fumetti tipico, ormai una tradizione, insomma, del Forte Prenestino, ma quest'anno sarà un Crack fantasma, alla ricerca di un'esistenza oltre lo specchio, dispettosa e buffona, dove le distanze fisiche sono filtrate e contingentate. Scegliamo la dissoluzione spiritica e, come ogni spettro che si rispetti, ci dedicheremo ad una cosa sola finché non avremo di nuovo le condizioni per tornare a generare condivisione fra le autoproduzioni. Noi infesteremo ogni spazio che riusciremo a prendere dell'arte e del fumetto, della produzione e della stampa. Ossessioneremo le forme di normalità modellate sui dispositivi del capitale, scompiglieremo le carte e rivolteremo le lapidi, liberando ogni scheletro nascosto. Questo è solo un pezzo del comunicato che Crack ha scritto per motivare il fatto che quest'anno non riusciremo a fare il festival che ci contraddistingue ormai da, credo, mi pare, vado a spanne, 16 anni, ma è un modo per rimanere comunque presenti e per rilanciare un 2021 splendente, come dicevamo anche per Enotica. Ora passiamo la parola a Valerio, che lo organizza da sempre, a Daniele della serigrafia, che ci accompagna per spiegarci e per raccontarci come Crack sopravvive nonostante la pandemia. Ciao Valerio. Buonasera a tutti e a tutte, felicissimo di essere qua sulla Radio Forte, è una cosa commovente che esista, siamo tutti a sostenere questo progetto, insomma. Io penso che sia stata una grande mossa di dignità, di orgoglio, di felicità che il Forte ha fatto di fondare questa radio. Ed è importante che questa cosa addirittura sia diventata un direttone, che è ancora più bello. Grazie, quindi, prima cosa. Sì, è stato uno degli strumenti che abbiamo cercato di mettere su e un po' di inventare durante tutto questo periodo che non ci permette di vederci, di stare insieme e di aggregarci. E sì, alla fine fa un po' il lavoro che forse avete immaginato voi, cioè connettere le persone senza la necessità di farci incontrare fisicamente, ma restando comunque collegati e connessi e soprattutto sintonizzati. E credo che in parte sia un po' il modo in cui avete immaginato questa edizione di Crack, che non si può realizzare fisicamente, ma magari può comunque esistere in qualche modo. Ma sì, tu sai che sapete che quest'anno era il terzo anno in cui Crack faceva un ragionamento sulla decolonialità. La decolonialità è non il processo postcoloniale, ma è proprio la presa di coscienza di come il colonialismo pervade le nostre vite, le nostre produzioni culturali e, ohimè, anche le nostre strade, i monumenti delle strade, ma anche i nostri disegni in qualche modo. E liberarsi e quindi fare un percorso di decolonialità è stato uno degli obiettivi di Crack negli ultimi anni. Quest'anno, oltretutto, il tema era proprio decolonizzare le menti, che è esattamente quanto il movimento Black Lives Matter, che in questo momento in giro per il mondo ha rivoltato le menti della gente, ha messo in evidenza. Io credo che la questione delle statue sarebbe entrata perfettamente, no, dentro alla tematica di questo Crack. Quindi è un grandissimo dispiacere per noi non essere in grado di svolgerlo, perché l'idea era proprio veramente immersa nella contemporaneità. Però devo dire che contemporaneamente questa assenza e questo poi è l'idea del Crack fantasma, è in realtà una presenza, no? Noi abbiamo lavorato in questi mesi molto a stretto contatto tutti quelli che organizzano dei festival indipendenti in Italia, si sono trovati nella stessa, con la stessa problematica, la stessa situazione, cioè festival sospesi, festival anche con progettazione molto avanzata. Io ho la fortuna di lavorare con i compagni dello Scugnizzo di Napoli al Festival UE che teniamo a, subito a ridosso del 1° maggio a Napoli, e quel festival si è trovato sospeso da un giorno all'altro sostanzialmente, quindi con una programmazione definita e con una tematica che era quella della, anzi del contagio, no? Della, della capacità di attraversare la crisi del, che il pianeta sta vivendo proprio rimescolandosi e contaminandosi. E questo mentre esplodeva invece una contaminazione di altro tipo e di diversa, e con un diverso, diciamo, contraccolpo. Altri festival hanno reagito facendo, facendo rete e, o altri facendo radio. Per esempio Olé ha avuto una giornata interessantissima di incontri e di discussioni, di musica, eccetera, e trasmettendo dall'etere. Però Olé in qualche modo, sapete, si doveva trovare all'XM24. XM24 ha subito un pesante sgombero, ne ha subito anzi due pesanti sgomberi, perché quello che l'ha tolto dalla sua sede storica e anche quello che l'ha tolto dalla sua sede che era trovata di sostituzione. Quindi insomma, diciamo, questa presenza ectoplasmatica di Olé è stata anche una conseguenza delle politiche del PD, no? del partito del governo a Bologna, che ha in qualche modo impedito a questa importante esperienza sociale di trovare una nuova strutturazione, una nuova sede. Sì, uno degli spiriti più grandi è che effettivamente quest'anno ci sarebbe davvero stato tutto, perché ci sono un sacco di argomenti a cui collegarsi, un sacco di situazioni che stanno succedendo e che sono nate, alle quali veramente andrebbe prestata voce e ci sarebbe bisogno di amplificarle. Sì, il dispiacere più grande è quello che quest'anno sembra, esatto, sembra che siamo ridotti ad un mutismo, ma in realtà non lo vogliamo fare. Ci organizziamo per trovare soluzioni diverse e strade alternative, e comunque tra di noi restiamo sempre tutti quanti connessi attraverso tutti quanti i mezzi e le strutture che abbiamo a disposizione, quelle che possiamo prendere e quelle che possiamo inventarci. C'è con noi anche Cecilia, una compagna da XM che ci fa compagnia e sta seguendo l'intervista con noi. Ciao, buonasera, ciao a tutte e tutti. Ciao. Sì, rispetto a quello che dicevi è vero, anche diciamo che non ci va di fermarci, ma riusciamo comunque a fare tante cose anche in lontananza. Noi come laboratorio di serigrafia stiamo comunque producendo un sacco di cose, diciamo in modalità smart working, per usare un tema attuale, stiamo supportando diverse situazioni grazie a tutto, diciamo, il collettivo di artisti che gravita intorno al laboratorio, che comunque ci mandano grafiche da stampare in supporto al GAM, che è una delle realtà che è nata all'interno del Forte. E comunque il laboratorio è attivo, le stampiamo e poi troviamo il modo anche di venderle tramite aste online, eccetera, per supportare diverse situazioni. Io invece mi introduco sulla questione dei festival. Io intanto appunto mi presento, sono una compagna romana trasferitasi a Bologna nell'ambito dello splendido XM24, che ricordiamo esserci sempre, anche se non più fisicamente, due volte sgomberato. Proprio un anno fa, il 29 giugno, scendevamo in piazza contro il nulla che avanza. In particolare io faccio parte del collettivo di Olé, oltre l'editoria, ma anche oltre l'epidemia, ma anche oltre l'entusiasmo, oltre un sacco di cose. Che è appunto il collettivo che organizza e si fa prendere bene per questo festival, che è un festival di autoproduzione, di editoria, di illustrazione. E, proprio come diceva prima il compagno del crack, quest'anno c'è stato proprio un grande lavoro in sinergia dei vari festival, che ricordiamo essere tantissimi, sparsi su tutto il territorio nazionale, e che proprio hanno cominciato proprio a lavorare in rete, già lo facevano precedentemente, per poter, insomma, capire come passare questa situazione, con scelte che sono state differenti anche a seconda dei mezzi e anche a seconda dei ragionamenti che sono politici che sono stati fatti. Olé in particolare si è trovato nella doppia situazione non solo di essere in pandemia e quindi di essere costretti a non poter fare il festival, ma anche di non avere di fatto uno spazio. Quindi già prima del lockdown ci eravamo interrogate e interrogati su come avremmo potuto portare avanti un festival che nasce, vive dentro XM, per XM, di cui XM era parte. E quindi già avevamo una situazione dislocata, mettiamola così. Con la pandemia, diciamo che XM, nel suo essere sempre multiforme e sempre un po' una fenice che nasce e muore continuamente, in questo caso nella pandemia ha trovato voce non solo nelle lotte, ad esempio nella rete anticarceraria o in altre situazioni di questo tipo, ma anche in Radio Spore, che è appunto una radio completamente autogestita, nata all'interno di XM circa 3 anni fa, che durante la pandemia ha funzionato davvero molto bene, grazie appunto utilizzando tutto su software libero, tutto su software autogestito da compagni e compagni della club, e, per cui grazie a quello siamo riusciti ad andare avanti e a fare questa giornata di Olé, che è stata il 31 maggio, con interventi, interviste, a fare un Olé non un numero 4 ma un Olé 3.5. E questo è stato il nostro modo di reagire in qualche modo al lockdown, alla pandemia, a cercare di diffondere il nostro segnale nell'etere. Il gioco di parole era segnale, segnole. E, se volete vi passo la parola. Allora, adesso noi ci mettiamo un po' di musica e ci sentiamo un po' di musica e poi proseguiamo con questa chiacchierata. Ci sentiamo tra poco, Valerio. Bene. Valerio, ci senti? Sì, ci sono. Ok, siamo tornati in onda e proseguiamo con questa intervista chiacchierata con te. E magari potevi raccontarci più o meno precisamente o anche in termini più astratti come avete immaginato questa lezione di crack senza la possibilità di vederci, di far venire qui tutti quanti gli artisti e di incontrarci come tutti gli anni. L'idea di contaminare e comunque di continuare a espandere, in qualche modo far arrivare i nostri disegni, la nostra arte un po' dappertutto in un modo diverso da quello dei banchetti e da quello delle celle del forte. Sì, io volevo agganciare proprio alle parole della compagna di XM, cioè io credo che questo lavoro in rete fatto quest'anno dai festival, in realtà, che si sono incontrati tanto meno, cioè tutti questi autori che si sono visti tanto meno e quasi mai, insomma, dal punto di vista del piano della realtà, invece si sono incontrati spessissimo con i mezzi a disposizione virtuale, no? E noi siamo usciti insieme con un comunicato il 1 maggio proprio sulla situazione della precarietà del lavoro dell'autoproduzione, in qualche modo. e quindi del lavoro immateriale, del lavoro non lavoro, che è quello dell'autoproduzione. È una chiaramente quella di chi fa questo tipo di impresa, è un sogno, una specie di scommessa, no? Al di là della propria esistenza in vita, insomma, perché spesso diciamo il carico di lavoro che si affronta è nettamente superiore a qualunque possibilità di guadagno messo in campo. Però è quindi anche per questo un lavoro estremamente fragile dal punto di vista proprio della strutturazione precaria del capitale. Sì, quindi secondo tutti noi festival una specie protetta che dobbiamo a tutti i costi proteggere. Cioè il nostro primo ruolo, oltre a quello di essere sì dei motori di incontro, socialità, eccetera, è un ruolo di promozione di una fetta di produttori immaginari che si trovano in grande difficoltà in questo momento. Quindi la riflessione che tutti i festival hanno fatto è quella di mettere in piedi questa rete che sta strutturandosi. Queste ultime riunioni che proseguono anche adesso, anche in questi giorni, abbiamo messo a punto una serie di idee, stiamo cominciando a strutturarle. Io penso che saremo operativi da dopo l'estate su queste cose, ma immagino che questo network in qualche modo terrà la voce, cioè terrà la possibilità di raccontare le produzioni che vanno avanti, come si sviluppano, di spiegare come si possono trovare, come dicevi tu, nelle varie modalità che i vari gruppi collettivi, ma anche singoli, hanno trovato per tenere in piedi il proprio progetto di lavoro, dando loro la voce con interviste. Già per esempio qualcuno dei gruppi che fa parte delle connessioni di Crack, penso ai ragazzi e alle ragazze di Vitagrama, hanno cominciato a fare questo tipo di lavoro, no? Mettendo degli articoli, delle interviste su blog che evidenziano alcuni tipi di produzione e permettono di raccontare, di dare voce. E sostanzialmente questo è il primo compito. Poi se riusciremo anche a sostenere in qualche modo dei progetti, questo sarà il punto 2. Il punto diciamo fantasmatico, situazionista, è quello comunque di ricordarsi che qualunque lavoro si fa all'interno di questo progetto instabile, che è quello di questi festival autoprodotti, è un lavoro che si fa in qualche modo con una rete e non si è da soli, no? C'è un po' di conforto fra spiritelli, fra fantasmi, che si può sentire. Quindi ci si può riferire a questa rete per un sacco di cose, in un sacco di maniere diverse. E questa rete si impegna e si organizza per rispondere a queste richieste. Ecco, questo è il programma da qui fino a che i festival non saranno possibili davvero di nuovo, insomma, questo è sostanzialmente il nostro pensiero. Sì, chiaro, io penso che svilupperemo delle cose molto belle, penso che comunque è un'occasione, stiamo prendendo questa crisi come al solito, come una grossa occasione e con un lavoro veramente condiviso e autogestito sta diventando un progetto comune forte. Intanto è una complicità in modalità stealth e aspettiamo che si esce fuori con più visibilità. Chiaro. Sì, ma infatti anche, voglio dire, il ragionamento appunto che è figlio di queste assemblee online, mettiamola così, dei vari festival, è stato il ragionamento che anche ha seguito lei per questa versione, diciamo, online e in radio di Olé. Proprio anche durante Segnale abbiamo scelto questo nome perché un po' ci piacciono i giochi di parole, per cui Segnale, Segnole, Segnolè e tante cose sciocche di questo tipo che ci piacciono tanto, perché ci piaceva lanciare un segnale, cioè un segnale anche di sopravvivenza. Sappiamo benissimo anche noi di Olé che un festival in radio non può in alcun modo sostituire quella sinergia meravigliosa che si crea fra chi viene a fare il banchetto, fra chi viene a esporre, fra chi arriva e semplicemente praticamente attraversa gli spazi arricchiti e pieni di quella situazione di festa che sono poi i festival autogestiti di autoproduzione. Però abbiamo deciso appunto proprio anche di lasciare e di dare uno spazio anche solo di voce, cercando anche di tradurre i messaggi che di solito con l'autoproduzione si mandano soprattutto sul medium della vista, attraverso il medium dell'udito e del parlato e della musica. Abbiamo chiesto proprio... Che è una bellissima sfida, tra l'altro. Una sfida che ci ha arricchito tantissimo in realtà. Noi siamo usciti con una call chiedendo appunto una doppia call, diciamo così, una call più formale chiedendo a quelle e quelli che erano venuti negli anni a portare il banchetto nei 3 anni di Olé di mandarci uno spottino, diciamo, dei loro lavori di autoproduzione in cui si presentavano in 2 minuti cercando anche di cambiare il loro medium. E poi abbiamo chiesto proprio alla rete dei festival di inviarci un racconto, una presentazione, di rispondere alle nostre domande su quella che era appunto i vari festival in tutte le città d'Italia. È stato uno splendido lavoro, abbiamo avuto anche un ottimo, diciamo, un'ottima risposta. Noi utilizziamo sempre dei pad con cui interagire con il pubblico, sempre di nuovo ricordiamo su server libero, sempre su server autogestito, ricordiamo quanto è sempre importante avere questo tipo di infrastrutture e quanto l'internet in questa cosa e della pandemia, ma in generale della nostra sopravvivenza, sia fondamentale per lanciare segnali. In questo senso siamo abbastanza soddisfatte e soddisfatti di questo lavoro, sapendo però che appunto c'è molto da fare, ci sarà molto da fare nel momento in cui si potranno riaprire questi spazi attraversarli fisicamente, ecco. Sì, sembra l'utilizzo consapevole. Volevo aggiungere una cosa, mi sembra bellissimo questo intervento, molto molto interessante quello che dice la compagna. Io credo poi proprio che in questo momento il capitale che si è più rafforzato da questa crisi è proprio il capitale che agisce sui social media, sulla trasmissione capitalista delle piattaforme online. Quindi a maggior ragione abbiamo necessità oggi più che mai di costruire nuove piattaforme e di rafforzare gli spazi di libertà che ci siamo guadagnati, facendo la più grande attenzione all'uso del software open source, libero, del no copyright o comunque al massimo delle forme aperte di Creative Commons, comunque tutte quelle forme che vanno a distruggere questo potere fortissimo che ha sfruttato la pandemia per rendersi ancora più forte e che sta condizionando in maniera pesantissima la vita politica delle più grandi democrazie di questo pianeta. E quindi vediamo un influsso nefasto, pericoloso e che dobbiamo contrastare con tutte le armi a disposizione, a maggior prima di tutto con l'arma dell'immaginazione, del disegno, della visione del futuro che i festival indipendenti portano. Sì, sicuramente magari internet è ancora una terra di frontiera e quindi probabilmente c'è un'occupazione, un opportunismo da parte di tutti. E come dici tu, chi lo fa per interessi di profitto sa come usarlo bene, ma probabilmente dobbiamo essere anche noi molto capaci di saperlo sfruttare in un modo creativo che ci ha sempre contraddistinto, che potrebbe essere sicuramente insolito e probabilmente molto divertente, come tutte le cose che abbiamo saputo sempre fare. Qui dalla regia ci comunicano che abbiamo poco tempo e vorrebbero mandare una traccia per spezzare un po'. Ci sentiamo tra poco e ci salutiamo. One thing I want to assure them. If they think I'm going to change or compromise in my attitude, in my way of life, or in my expression, or in my goal towards politics, they are making me stronger, and I'm much, much stronger now. There go like simple and plain as Pamela Basic Zulu arrangement, rocking amazement, flocko radiant from heaven to pavement. If only is a facelift, nothing to play with. Spend time hating it, but that ain't changing it. God give it to me, nobody is taking it. Therefore, moving on the basis, stimulus, standing in the twilight, I'm watching them get it in. The walls trembling, the air simmering, she moving like more. caught in the ears and listening, won't now. Test to your equilibrium, sonic wave booming all over your enemy. Skin on skin in, skin on skin again. Put it on, get it off, get on, get it in. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Cause of other enter and synonyms. Here it is, Boogeyman. Huh. I simmer down now. Quiet dog by a hall, my God. Sitting in a rocket, don't stop. Brooklyn in the kitchen, heat up the stovetop. Bay in the Empire State, they're navigating the way. Your preservation made the greatest hip hop. These cool dudes swagger, love cherry corny. They flow so fatty, unsteady, it's boring. These dudes ain't dope, but they on it. They need to get off it. So whack whack is all you can call it. Therefore, moving on to death is stimulus. Regardless, what zone or what town you represent, a bullet. To all of your settlements, tower to tenement. I'm moving through for all of the elements. A simulant and managing mayhem. I'm bright as the AM. Engine about to roll out the station. And blessed with the fresh day one. I got it today done. We all going back to the same one. It's constant motivation I stay with. Remarkable flavors. They all bear the mark of the greatness. Whoa, now the kid is the buck town. Your girl is in love now. You jump start fun to get shut down. Shut. Simmer down, quiet dog, wild heart, let's rock. And you don't stop. A simmer rock to the rhythm, you don't stop. So you maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock, quiet dog, wild heart, my God. Simmer down. Stay cool. Simmer down, quiet dog, by heart, my God. Stay cool. Simmer down, quiet dog, by heart, my God. Ciao Valerio, siamo di nuovo in onda. Quiet dog, by heart, my God. E in realtà stiamo per salutarci perché la diretta, il palinsesto della diretta è abbastanza fitto e abbiamo altri appuntamenti. Stavamo per presentare la fanzine di Pinca, una ragazza che l'ha stampata. E vuoi raccontarci qualcosa a proposito dei lavori che sono stati proposti per questa edizione di Crack? Oppure prima mi raccontavi del network che avete creato e del fatto che comunque tramite la rete si riesce a stare sempre aggiornati e connessi? Beh sì, appunto, come stavo dicendo prima, cioè la questione è proprio questa, giocare su questa idea che bisogna da una parte rafforzare tutta la parte di rete che riesce a tenersi in piedi senza essere sulle grandi piattaforme del capitale, e dall'altra usarla cercando di spingere dei contenuti il più complessi possibili. Su questa idea stiamo lavorando per permettere di dare uno strumento strutturato ai festival tutti e ai vari autoproduttori anche in maniera individuale. Penso che questo è il futuro che per forza di cose ci dobbiamo trovare di fronte. Io ancora non abbiamo notizia di cosa succederà a Lucca a ottobre, cioè se il più grande festival del fumetto italiano, che è quello di Lucca Comics, si terrà o no. E ancora non sappiamo, quindi di conseguenza, se in qualche forma il Borda ci sarà, anche se in maniera per forza di cose più compressa, per via di fattori organizzativi, ma comunque in un tentativo, probabilmente se ci sarà la possibilità, ci sarà di fare questo. Ovviamente non possiamo nemmeno pensare però di lasciare campo aperto, campo vuoto, insomma, sia per tutelare gli autoproduttori e tutti quanti gli inventori di immaginari non allineati alla produzione del mercato, ma contemporaneamente anche per ricordare invece ai grandi festival, a tutte quelle strutture che invece si muovono sulla grande editoria, quindi sui grandi numeri, sul turismo, sulla massificazione e poco sulla produzione culturale, che invece siamo noi a far camminare l'aspetto invece che si cura veramente di che cos'è il fumetto, di che cos'è di raccontare per immagini e di immaginare nuovi mondi da raccontare. Sì, chiaro, anche noi vabbè, ci uniamo chiaramente come Olea a questo, mettiamola così, appello comunque a questo tipo di evocazione di un immaginario nuovo. E vabbè, per quanto mi riguarda vi salutiamo anche e per un caldo saluto da Bologna e da XM e da Olea. Dagli è forte, dagli è tutte, dagli è tutti. Ciao Valerio. Un abbraccio grandissimo a tutti e a tutte. Vai Giorgino. Va bene, riprendiamo. Abbiamo parlato di molte cose, tra cui della rete come terra di confine, dove possiamo ancora riconquistare un po' dei nostri spazi, e anche ne approfittiamo per parlare con la Club di Firenze, che ha prodotto una fanzine, questo è il numero zero, Dicciosi. E parleremo tra poco con un compagno di Firenze di questa terra di confine della rete e anche di questa nuova fanzine autoprodotta, insomma, sempre per rimanere in tema con quel di cui parlavamo prima. Sì, che nell'editoriale questa fanzine si pone un po' il problema: sarà la rete che ci salverà? Sarà un'app che ci salverà dalle pandemie? Saranno tutti questi dati che raccogliamo che potranno aiutarci, o forse la soluzione altrove? Vi lasciamo con questa domanda e andiamo con uno stacco musicale. Ascoltiamo un po' di musica. C'ha il fomento e ti ribalta da dentro, trasmissione di persone a testa alta. Dio perdonali, sanno quel che fanno, fanno con quel che c'hanno e quel che c'hanno danno. scelgo tutti i giorni come meglio. Sbaglio, ma poi comunque arrivo al dunque e me la regno. Fiera di un carattere impossibile, di come vivere, di cosa scrivere, di dove spingere, lo so da me. Generazioni di guerriere mi precedono, forte di una stirpe a testa bassa che ti scassa, ti scassa. Se ti pigliano, stronza come minimo. Se stai contro la rossa, mo ti passa, ti distruggo l'intimo. Non ti passa più. Forse se ti sposti passo, forse passo uguale perché c'ho da fare. Non ti cedo il posto, per il 9-8 corro un zoo. E ancora un'altra cosa, ricorda, ricorda che finché ce n'è, per me non sei di casa. A testa alta, sto in alto come se fossi sopra un'astronave. Non ce credi, vieni che te do le prove. Altro che prova del 9, qui si testa il tuo spessore. Sì, nel gioco duri una vita o molli dopo due ore. Tu, alza la testa e picchia forte. No, più forte fammi male. Tranquillo, sì, che so incassare. So chi è la mia famiglia e me basta. Come fossimo niente in mezzo a sta gente. Mai a testa bassa, chiaro, limpido, come le gocce che dal cielo cadono. Credo in me stesso anche quando gli altri smentiscono. Posso non rallentarmi ma non me sblastano. Sicuro che la testa non me la magnano. Tu sì, sì massiccio sì, te riesce. Rompili prima che te rompano. Usa tecniche ma esce per difenderti. Figlio non arrenderti. Il rispetto, il fuoco non lasciarlo spegnersi. A testa alta io vivo io. Ti guardo e rido io. So chi sono io. A testa alta io vivo io. Cammino io. Se ti incontro non discuto. Io ti sfido zio. A testa alta io vivo io. Guarda e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io. Cammino io se ti incontro non discuto. Io ti sfido. La base cresce storta e sporta. E della gente che gliene importa. Diseredati di ogni sorta con la fotta. Non aprire questa porta. Quello che troverai potrà piacerti o darti ai nervi. Già lo sai che dal mio piatto non ti servi. Com'è che adesso vuoi farti business con gli scarti. Organizzarti parti e non pagarteli. La mossa è underground e i gerarchi dai davanti. E allora eccoci qui di nuovo in diretta, pronti con il nostro ospite, qui direttamente da Firenze, dalla Club di Firenze, per presentare Ciusi, la nuova fanzine. Ciao, il nostro zero. Ospite che chiameremo Aldo, per, ciao, Aldo. Per convenzione, da ora in poi Aldo. Aldo, come va? Chiamatemi come volete, comunque tutto bene. Quindi dici un poco, questa fanzine l'ha fatta If Do, che è la Club di Firenze. Quando è nato la Club di Firenze? Dunque, nasce, secondo me, così a memoria, 3 anni fa. E nasce in un posto di Firenze che è la Polveriera. Poi, dopo un annetto circa, per un po' di problematiche relative alla, diciamo, cioè non ci sono state delle divisioni, cioè non ci hanno cacciato. È proprio è che avevano difficoltà a gestire tutte le attività nello spazio e l'E-Club si è spostato all'Emerson, sempre a Firenze. E più o meno in questi 3 anni è sempre stato attivo, cioè nel senso che non abbiamo avuto grossa crisi, anzi ci vediamo in maniera regolare. Quando abbiamo smesso di vederci è stato essenzialmente per il lockdown, perché non ci siamo più visti fisicamente. E dopo che ognuno di noi sostanzialmente si era inventato dei modi per sopravvivere a questa cosa, qualcuno ha buttato lì un'idea: ma se facessimo una fanzine, tipo, e così è stato, nel senso che alla fine questa roba di Ciusi, che è il nostro numero zero della fanzine, è una figlia del lockdown, diciamo. Cioè, noi ci siamo trovati a doverci inventare delle cose per non impazzire troppo e abbiamo detto buttiamo i nostri impazzimenti su una cosa che poi diventa cartacea nel post, nel senso che ci tenevamo che non fosse una roba solo digitale ma che avesse una vita più fisica. E quindi, terminato il periodo di clausura forzata, appena ci siamo rivisti abbiamo stampato, fatto con amore le copertine. Nel senso, infatti, che le copertine per la maggior parte sono fatte a mano. Io, cioè, c'è qui una copertina fatta da qualcuno più bravo, cioè di un disegnatore ganzo, che è Brucio, che è un tipo simpatico che ora sta qua. Però il sopra copertina è fatto rigorosamente a mano. Ce ne abbiamo addirittura 5 copie che abbiamo fatto con un lamierino arrugginito, che rende il peso specifico della fanza altissimo sostanzialmente, e poi altre invece le abbiamo fatte con delle vecchie tende di quelle tipo della nonna, quelle con i merletti e gli arabeschi, queste, e quindi niente così. Ok, quindi il tema, vabbè, prima provavo a parlarti ma forse non ci siamo sentiti, comunque il tema ricorre, cioè quello di durante il lockdown di utilizzare ciò che abbiamo per continuare a fare le nostre attività e nonostante tutto tendere a alla fisicità di ciò che facciamo per realizzare qualcosa di pratico. Qui infatti sono proprio curioso di vedere queste fanzine con la copertina in acciaio. No, non è acciaio, non ce l'avevamo l'acciaio, era un lamierino in ferro. La prossima la facciamo in acciaio inox comunque. Eh sì, infatti ci costerà tantissimo. Ah, non siete ancora in grado di rendere acciaio il ferro? Sull'alto forno ci stiamo lavorando. Ora, okay. Cioè, stavamo appunto trattando l'acquisizione di un'acciaieria, però ora vediamo. Senti, ma questo titolo Ciusi da che è venuto fuori? Aspetta, ridimmi la domanda che non ho capito bene. Il titolo Ciusi, il titolo della fanza, che è nato? È un omaggio alla Fornero, che forse non si ricorda più nessuno chi era, però lei, parlando del perché le persone non trovano un lavoro, in particolare i giovani, aveva detto: i giovani non devono essere troppo ciusi nella scelta del lavoro, cioè non devono essere schizzinosi nella scelta del lavoro. Un'affermazione di quelle interessanti, nel senso che è una di quelle che, anche se non è passata alla storia, tipo il popolo non ha il pane, dategli le brioche, però comunque si inseriva in quella tradizione lì e quindi ci sembrava importante rivalutarla. E quindi abbiamo deciso che la nostra fanzine si chiamerà Ciusi, cioè che è schizzinosi o schizzinose, insomma. Selettivi suona sì. Meglio. E nell'editoriale leggo che avete fatto delle riflessioni, non so poi se queste riflessioni fanno parte anche di una rete un po' più ampia del solo A Club di Firenze, in cui leggiamo chiaramente che non sarà la tecnologia che ci salverà, però o almeno forse una parte della tecnologia sì, l'altra no. Qua si parla di big data, di intelligenza artificiale. Ci vuoi riassumere l'editoriale? Quell'articoletto lì in realtà non era proprio un editoriale, è che non avendo un editoriale abbiamo messo quello perché assomigliava a un editoriale e quindi abbiamo detto tutti lo scambieranno per un editoriale, quindi lo usiamo. era un articoletto, era da che parlava di matematica e statistica più che altro, perché in qualche modo ce l'hanno buttata addosso un sacco in quest'ultimo periodo e quindi voleva in maniera forse un po' confusa, però riportare a una visione di queste cose legata al in qualche modo antifunzionale, per quanto lo può essere anche la matematica, cioè per quanto sia utile in alcuni ambiti ed è ganza, però l'utilizzo che viene normalmente, a cui viene normalmente deputata la matematica, è essenzialmente quello di suffragare con dati nel caso dei big data sempre più numerosi, delle tesi che poi sono umane e molto umane. Infatti, e quindi noi volevamo dire che a noi la matematica ad esempio non dispiace, neanche la statistica è bella, e che qualche volta però è quasi più interessante il processo, cioè non lo so, la come si arriva alla formula o la formula stessa, che ha una bellezza quasi estetica alcune volte, è piuttosto che il mero risultato funzionale a cui però sembra tendere più o meno il nostro utilizzo della matematica. E quindi niente, volevamo dire la nostra cavolata su questa cosa qui. Cioè, sostanzialmente proprio. E poi parallelamente a questo c'è tutta una roba che alcuni di noi stanno portando avanti sul cioè il discorso sull'intelligenza artificiale, essenzialmente perché spesso, sebbene ci siano dietro anche delle teorie non lo so, matematicamente anche interessanti, però poi tutto quello che viene fatto molto spesso è legato alla scelta del set di dati, no? E quindi tu scegli dei set di dati che passi come, e il risultato che poi ne esce lo passi come una roba oggettiva, no? Però in realtà la scelta dei dati è spesso tantissimo soggettiva, e quindi anche quando leggi nel campo scientifico eccetera di questioni eccetera, cioè, c'è una grossa importanza in qualche modo il dato che tu scegli da cui partire, no? Le condizioni a contorno, cioè come crei poi quella roba, che dovrebbe essere spiegata molto bene, perché poi non è tanto il risultato che ci cavi fuori, perché coi numeri spesso, cioè, riesci a tirare fuori esattamente quello che vuoi dire, cioè basta leggerli in un modo, in un altro, applicare una cosa piuttosto che un'altra, cioè cambiare un po' con le condizioni a contorno. E quindi un'altra roba che si tentava di dire nell'editoriale era esattamente quella lì. Allora, cioè, anche quando parliamo di queste cose, la questione non va banalizzata, nel senso che non è che tutto quello che ti dicono è per forza campato in aria, però senz'altro va spiegato bene la condizione a contorno da cui nasce l'affermazione, no? Per non prendere la scienza come un oracolo, che poi è un oracolo finto, perché ci dice esattamente spesso quello che vogliamo sentirci dire o quello che qualcuno vuole farci intendere, sostanzialmente. Quindi correggimi se sbaglio, stiamo dicendo che con questa cosa dei big data l'hanno buttata in caciara, quindi dicono i big data è tutto oggettivo, perché noi mettiamo tutti i dati nel computer e mettiamo talmente tanti dati e il computer trae il computer o quello che è l'intelligenza artificiale trae delle conclusioni da solo che non sono soggette a interpretazione umana, perché vengono direttamente dai dati. Invece, ovviamente, come diciamo da sempre, la scienza non è neutrale, la matematica non è neutrale e la scelta dei dati da mettere non è neutrale neanche questa, ma inoltre oserei dire che, anche se guardiamo poi tutti gli algoritmi di analisi di questi big data, ci sta sempre un'ulteriore chiave umana, e non è tutto frutto di un'elaborazione e frutto solamente dell'analisi dei dati. Chi innesca il processo è comunque una persona, e i destinatari dei dati del processo sono altre persone. Quindi necessariamente ci entriamo in questa cosa più di quanto vogliamo far credere. Che altro troviamo su questa fanzine? Io vedo che ci sono anche delle fantastici rebus e anche tipo parole crociate. Cioè, abbiamo anche dei giochi completamente irrisolvibili che io non ho capito assolutamente come si fanno. Ci sono quelli della penultima pagina che ancora a me sono oscuri. Anzi, se qualcuno di voi riesce a capire cosa bisogna fare, io non ci ho capito niente. Proviamo. Sì, abbiamo i rebus, abbiamo anche i giochi, perché giustamente abbiamo detto non vogliamo dare uno spazio anche all'enigmistica popolare, e quindi abbiamo dato uno spazio anche a questo. Cioè, sostanzialmente tutto quello che in qualche modo intrippa qualcuno che è all'interno del circuito dell'E-Club, che gravita lì attorno e aveva voglia di scrivere, l'abbiamo messo. Infatti si spazia abbastanza, nel senso che l'articolo forse più lungo tra quelli è una lunga disquisizione su volendo astrarre, è una discussione su come si creano e perché si creano gli opinion leader nelle robe social. Nello specifico è un lungo trip su questa roba di che ora io non ce l'ho fanta davanti, non mi ricordo neanche chi è, però di questo tipo che sforna un sacco di recensioni su musica, cioè che non fa recensioni, cioè lui propone dei video e per qualche motivo i suoi video vanno un sacco, cioè ha un sacco di follower eccetera, e quindi la persona che l'ha scritto si chiedeva: ma per quale motivo io mi ritrovo sempre questa cosa con YouTube che mi consiglia queste cose, cioè chi è costui e come cavolo fa a essere così influente in quest'ambito? La domanda non ha risposta, peraltro, cioè una domanda. Parli dell'articolo? E poi c'è anche un articolo ganzo su su alcuni programmi utilizzati che possono essere utilizzati per ricostruire spartiti antichi, cioè di musica che magari è del 1500-1600, e quindi se qualcuno non l'ha suonata prima e te hai solo lo spartito e non c'hai la fortuna di trovare qualcuno che te lo esegue, essenzialmente non c'hai la musica, devi saper leggere e immaginare. E quindi c'è una persona dell'Ecla che si era presa bene da queste cose per interessi suoi personali e ha provato a ricreare uno spartito di musica barocca utilizzando questi oggetti. Ci ha smattato un po' di settimane e poi ci ha tirato fuori un articoletto così. Poi altre cose, ci siamo anche messi a scrivere del codice. Codice basato sulla programmazione a programmi, leggo da qualche parte. Certo, rigorosamente programmazione a programmi, ma noi abbiamo aggiunto anche una roba in più, che è quella della certificazione funziona solo sul mio computer, che è cioè ce ne facciamo fregio, perché i nostri programmi sono i primi a essere certificati con questa certificazione internazionale. E quindi niente, durante il lockdown abbiamo deciso di rendere il tempo proficuo e appunto fare questo salto di qualità nella scrittura del codice che vedeva appunto la nostra entrata in questo percorso di certificazione che ormai segna totalmente il nostro stile di programmazione. Come posso ottenere anch'io la certificazione funzione solo sul mio computer per i programmi da me scritti? Allora, questo non è semplice. Noi abbiamo dovuto affrontare un lungo percorso di prove tipo Tana delle Tigri, però diciamo al prossimo forse Hack Meeting proveremo a rendere questa cosa pubblica in modo che tutti quanti possano certificare i propri programmi con la funziona solo sul mio computer. Quindi per ora non ti posso anticipare ancora niente, perché siamo in trattative con il chapter, quello internazionale, e quindi non è ancora una cosa che posso rendere pubblica, ecco. Quindi bisognerà andare ad Hack Meeting. Tu sei al corrente di un Hack Meeting? Per forza, perché poi ci sarà il numero uno ad Hack Meeting. Sì, sembrerebbe che forse c'è, non so se puoi confermare o sconfermare questa presenza fantasmatica di questo Hack Meeting che dovrebbe arrivare. Secondo me non sarà come Crack fantasma, sarà meno fantasma, però sentiamo anche il nostro compagno da Firenze che dice, ci sarà un Hack Meeting? Allora io penso di sì, cioè la vera conferma dovrebbe avvenire dopo l'11-12 luglio. Perché ci sarà il Hack Meeting e quindi da lì si capirà, però io penso che ce la facciamo. Quindi toccherà venire ad Hack Meeting per vedere le copie di Ciusi con copertina in lamierino. Ma sicuramente avremo fatto nonna. Anche il numero uno per allora, quindi ci saranno ben due numeri. Ah beh, è chiaro, deve uscire il numero uno e uscirà proprio ad Hack Meeting, figata. Certo, è tutto fatto apposta. Cioè, è chiaramente una strategia di marketing che noi abbiamo studiato fin nei minimi particolari. Sottilissima proprio. Beh, dai, è da paura. Ma invece questo 11 e 12, come si prevede? Perché guardate me? Io non ne so niente. Cioè, se no sei te che io deve sapere, scusa. L'11... No, infatti questa cosa qua la sapete più voi, io non lo so. Cioè, io penso... Non lo so, io ci vengo. Noi sappiamo che c'è un feroce tiranno a Firenze. Su, veniamo, siamo anche abbastanza. Un feroce tiranno a Firenze, l'eminenza grigia di Hack Meeting. So che è stato rapito un tale Aldo Ginox. E quindi secondo me è lui che controlla tutto. Quindi sarà lui che dovrà dirci se avverrà questo compromesso storico. Se... Ecco, compromesso storico è già avvenuto. È già avvenuto. Secondo me, infatti, nell'ombra in realtà, cioè, è possibile che Hack Meeting ci sarà. Ecco. Ok, è possibile che ci sarà. Molto bene, molto bene. Cioè, non mi tirerete fuori più di questo, è inutile. Ok, allora vedremo, chi vivrà, vedrà. Poi la cosa importante, però, sempre relativa al codice della fanzine che mi hanno detto che devo dire ogni volta perché non si capisce, è che in realtà quel codice di cui parliamo nella fanzine, in maniera stringata dicendo se volete vedere il codice dovete unzippare il PDF, è perché effettivamente dovete unzippare il PDF. Cioè, abbiamo messo il PDF online della fanzine, anche se avete la copia cartacea, è inutile che la rigirate, il codice non è lì, ma il codice sta dentro al PDF. Steganografia, quindi? Come? È steganografia? No. È più semplice? No, no, sono formati poliglotti. Formati però non poliglotti. Vi dico più niente, perché sennò mi fate dire tutto e io poi, cioè, poi la gente non cioè, un po' si devono sforzare da soli. E allora, secondo me... Ho già detto, anzippate il PDF, anzippatelo. Eh no, vabbè, il messaggio è chiaro e quindi lasceremo questo dubbio agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Lasciamoci con questa suspense di anzippare il PDF oppure no. Ci sarà il meeting oppure no e quindi... Forse potremmo chiudere così il direttone di oggi e aggiornarci alla prossima puntata. E beh, dai. Va bene, ok. Allora, grazie al compagno da Firenze per convenzione chiamato Aldo e grazie a voi. Ci sentiremo e ci vedremo presto. Dai. Dai, ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao ciao. Tu Maria Marta una vez más, contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían. Tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte para contarte desde otra parte. Compatriota del mismo mundo al comunicarte. E allora, grazie a tutti, a quelli che hanno seguito questo direttone dal Forte Prenestino, dal CSO Forte Prenestino. C'è qua anche Alessio che ci voleva dire qualcosa e salutarvi tutti. Buonasera a tutti i compagni all'ascolto, spero che mi sentiate. E niente, volevo solo fare un saluto a tutti voi all'ascolto e ringrazio Radio Forte per questa bellissima opportunità che mi ha dato. Oltretutto era diverso tempo che non parlavo in una radio e per me è sempre una cosa bellissima. Mi raccomando, quando ci saranno le prossime dirette, ragazzi, stay tuned, rimanete sintonizzati. Ciao e grazie. E dai sempre forte. E dai sempre forte. Allora, vi salutiamo dal direttore, vi salutiamo direttamente dal CSO Forte Prenestino. E viva le realtà dal basso e viva le cose naturali. Dai. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores no me detengo. Pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cohetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Así está la cosa. Me levanto ni me duermo. En esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguir venimos pasando de mano en mano. Esta es nuestra propia cruz pura, su pura dura. De tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor que se vislumbre, una luz que nos alumbre. Una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros. Y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, ¿quién nos dará el diagnóstico? Todos aquí esperando el próximo pronóstico. De esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla. Y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento. Penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo.